sito e allegati forse anche all'invito di questa sera, e magari di cui è meglio che parlate voi spiegando un po', che non vorrei poi dire delle cose che vanno sistemate. Quindi io intanto vi ringrazio tutti e tutte quelli che sono qua in questo momento e passo la parola magari ad Angelo, che introduce forse meglio di me la cosa. Grazie. Vabbè, io la faccio molto corta. Perché è importante parlare di Argentina? Credo che è una cosa alla quale si può facilmente arrivare, perché è comunque un paese che, per quanto sia geograficamente distante da noi, è comunque neanche tanto lontano dal punto di vista della sua composizione sociale, culturale, storica, economica, e perché è un laboratorio importante in questo momento nel mondo, nel senso che nell'ambito del cosiddetto mondo occidentale, influenzato dall'Occidente, abbiamo un paese con una grossa tradizione di lotta, di mobilitazione, uno dei paesi più sindacalizzati nel mondo, con una tradizione anche grossa nel campo della difesa dei diritti umani, l'unico grande paese dell'America Latina che ha fatto morire il suo dittatore in carcere. Ora, al di là del fatto che il carcere qua non piace a nessuno, però è un dato di fatto. Pinochet non è morto in carcere. È un paese con questo tipo di tradizione, di vocazione, di importanza, conosciuto in America Latina come un paese di lottatori, di combattenti, di ribelli, mettiamola come volete voi, in questo momento ha uno dei governi più reazionari che esistano, e non è un caso che proprio lì si sia installato questo governo. Io la chiudo qua e passerei la parola a Federico, che si presenterà da solo, e lui magari cercherà di parlare lentamente e poi io farò delle traduzioni brevi. Il problema, secondo me, è innanzitutto descrivere a grandi linee le cose importanti che sta facendo questo governo, ma la cosa più importante, che credo qua è meno conosciuta, e cosa stanno facendo i movimenti sociali e i movimenti di base per combattere queste politiche, le difficoltà che stanno incontrando, perché io so che ci sono sicuramente delle difficoltà di fronte alla violenza e all'aggressività delle politiche del governo di Milei, e anche la discussione politica che c'è sulle varie modalità per affrontare questo tipo di nuova fase politica che sta vivendo l'Argentina. Chiudo solo dicendo che all'interno di questa serata c'è anche questa, come parte della serata, questa campagna di finanziamento per la difesa giuridica e politica, che è stata lanciata da un collettivo di avvocati e dal sito di informazione alternativa di cui fa parte Federico, che si chiama Unred, e hanno lanciato questa sottoscrizione. Qui abbiamo anche il documento che hanno fatto e che potremo anche dare a chi fosse magari interessato a portare avanti, a sostenere questa campagna, però magari ne parleremo anche dopo, durante la serata. Allora, niente, Federico, inizia facendoci un po' una panoramica. Ah, vuoi che mandiamo subito i video? Ecco, mandiamo subito due brevi video che ci introducono all'argomento. Sono brevi, sono 1 minuto e mezzo e 3 minuti. Hola, ¿qué tal? Yo soy parte de un colectivo de contrainformaciones que llamaban Red, que está desde la década del 90. Es una mezcla entre activistas, estudiantes de periodismo y gente del movimiento piquetero cuando surgió en la década, mediados del 90. È necessaria la traduzione? Per ora no, vai avanti parlando piano. Bien. Eso para modo rápido de presentación. Pero voy a grano. En Argentina está viviendo un momento histórico, en el sentido que Milei, el gobierno de Milei, a diferencia del gobierno de Macri, que era un empresario, o otros gobiernos que ahora empezó el neoliberalismo en la Argentina, está haciendo una ofensiva del capital histórica. Andiamo così? Sicuro, eh? Chi non capisce ci fermate e andiamo con una traduzione. Bien. Parla piano, sempre. Piano. Despacio. En este sentido, en Argentina ha habido un empate, lo que se dice un empate entre burguesías, agroexportadora internacional y burguesía industrialista. Empate en el sentido de... De empate... De enfrentamiento. Enfrentamiento. Uno scontro. Un encuentro, un enfrentamiento. Pareggio. Pareggio. Sí. Pareggio. Conflictos sociales donde las clases populares han penduleado, han cambiado entre esos dos sectores. Oscillato. Oscillato. En este momento... Milei está tratando de terminar con este tipo de enfrentamiento para unificar un proyecto nacional de burguesía dominante, unificate. En eso, terminar con los sindicatos, terminar con la educación pública, terminar con las instituciones del conocimiento. Finiquitare, smantellare. Smantellare, lo que es conocido como el estado de bienestar que había surgido con el peronismo, y junto con eso al sector también de la burguesía industrial, muy castigada, muy debilitada. Hoy, por ejemplo, en una región, ¿no?, del sur de Argentina, se llama Tierra del Fuego, donde hay pequeñas industrias, hay un paro total. C'è uno sciopero totale nel sud estremo dell'Argentina, Tierra del Fuego, la Patagonia, el sur de la Patagonia. Porque Milei anunció el fin de los aranceles y la libre ingreso de mercancía, de mercadería, manufactura. Fin de los aranceles. Aranceles. Ese es un ejemplo de lo que está sucediendo en Argentina, ¿no?, con el gobierno de Milei, la novedad. La otra parte, quizá para explicar la novedad de Milei, es que no tiene partido político. Llegó al gobierno, era como Zelensky, un cómico, como alguien de la televisión que era medio personaje, y fue escalando. No tiene partido político, no tiene anclaje, no tiene, ¿cómo se dice?, radicamento. Radicamento en los sindicatos, en los movimientos sociales, en la derecha clásica. Era un outsider de la política total. Incominciò como animador televisivo. A pesar de eso, nadie pensaba, ninguna fuerza política pensaba que iba a ser presidente. Es una novedad. El tema es, ¿qué sucedió para que llegue Milei, ¿no? Es una pregunta que todo el mundo medio se la hace. Tutti si chiedono come ha fatto ad arrivare al potere. Claro. Nosotros, como medio alternativo, veníamos debatiendo con la socialdemocracia, en el progresismo en Argentina, las cosas que no se venían discutiendo y qué pasaban, y quizá no se conocían tanto. Por eso teníamos unos videos ahí para proyectar las luchas sociales que habían durante el progresismo, el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, que era un gobierno peronista y vinculado al kirchnerismo también. Y no sé si se podrá. Los videos representan, sí, esa lucha en el gobierno anterior, no, claro, en este gobierno. Son dos videos. Uno de los videos representan a rebeliones provinciales que hubieron durante el gobierno de Alberto. El extractivismo es sobre los gobiernos anterior y el más corto sobre el gobierno. Sobre las luchas actuales. Ci sono due video. Uno, il più lungo, rappresenta i movimenti contro l'estrattivismo che in realtà si sviluppavano anche prima, perché poi c'è una continuità in realtà fra alcune politiche condotte prima dai governi peronisti ed anche dopo continuate da Milei. Il secondo video invece più corto rappresenta le lotte fatte adesso con il, durante il governo Milei. Bien. Eso lo podemos ver ahora? Prima quello più lungo e poi quello più corto. Lotte sociali recenti contro il capitalismo estrattivo. Este 2020 es otra, en otra región. A ver si escucha, ahí está. También una, fue una rebelión que terminó con el incendio del Palacio Legislativo de la provincia. Ahí se puede ver, la gente incendió las instituciones del gobierno. Nel 2020 hanno incendiato il Parlamento della provincia di Chubut. Quindi in pieno governo di Alberto Fernández. Tre anni prima dell'arrivo al potere di Milei. Traidore, traditori. Es el 2023, el finale del gobierno de Alberto Fernández. También otra rebelión en Jujuy, otra región de Argentina, en el norte de Argentina. Contro una riforma della Costituzione della provincia che era su misura degli interessi del capitalismo estrattivista, della, delle grandi imprese minerarie. Le misure minacciavano territori e comunità indigene. Questo malessere si fuse con il reclamo dei docenti e degli impiegati statali. Murió un compañero acá en esta lucha, allá en el norte, todos vamos a estar unidos porque el tirano Morales tiene que renunciar y eso es lo que queremos todos que renuncie. Brutale repressione contro un blocco stradale il 17 di giugno. Hay hambre, entiéndalo una sola vez. No podemos estar viviendo esta crisis de nervio. Basta, basta de represión, basta. Queste lotte hanno ottenuto un certo successo nel bloccare questi progetti. Le province sono Mendoza, verso le Ande, Chubut e Jujuy, che è più nel nord. Bueno, ahí, un commentario a questo video. Prendiamo la luce? Prendiamo la luce e poi con l'altro video. Accendiamo la luce e poi andiamo con l'altro video, quello più corto. Bueno. Estos videos los filmamos nosotros desde los medios alternativos. Difundimos estos acontecimientos cuando todas las fuerzas políticas, en el primer video en Mendoza, en el 2019, ningún medio de comunicación difundía los inicios de la rebelión, de esta rebelión provincial. Nessun mezzo di comunicazione a quell'epoca, governo peronista appena insediato, dava notizia o dava risalto a queste lotte. La rebelión, esta rebelión era porque las fuerzas políticas habían votado una ley que permitía el ingreso de la minería en estas regiones donde hay escasea del agua y corre el riesgo de contaminación del agua. La lotta era perché il governo voleva permettere l'ingresso delle grandi miniere in una regione dove c'è scarsità di acqua e quindi queste attività avrebbero portato all'avvelenamento delle poche acque disponibili. La prensa progressista e più legata al peronismo non pubblicava lo che stava succedendo nella provincia, tampoco la prensa di derecha, perché la minera, il lobby della mineria paga molta propaganda, molto. Né la stampa peronista progressista né quella di destra pubblicavano queste notizie perché le grandi industrie minerarie finanziano tutti questi partiti e mezzi di informazione. Bueno, en este sentido, el rol de la comunicación militante, medios alternativos, hicimos lazos, redes, para difundir esto que empezó a suceder. Que luego tomó escala nacional porque era una movilización histórica. En Mendoza. En el 2020, un año después, volvió a suceder lo mismo en Chubut. Otra vez hay el consenso extractivista de ir ¿no? de la mega minería. Modificó una ley también en el Parlamento de Chubut para aprobar el ingreso de la mega minería en una zona de la provincia, amenazando el único río que tenía la provincia. El 2020 si ripete lo stesso meccanismo in un'altra provincia. Quello che lui chiama consenso minerario, sarebbe l'alleanza di tutte le imprese che operano in questo campo, voleva iniziare un'attività in quest'altra provincia argentina, che si trova sempre un po' nel centro-sud, fra l'altro in una zona dove c'era un unico fiume, quindi avrebbero distrutto, avvelenato l'unico fiume disponibile in questa provincia. In questa provincia la ribellione fu tal che también prendieron fuego il palacio legislativo, la polizia se tuvo che retirar por unas días del lugar. La polizia dovette ritirarsi dalla città dopo che fu incendiato il Parlamento locale. Y hubo una participación del popular, de asambleas y también del movimiento obrero, ligado a la pesca, a sectores del Estado, interclasse, muy movilizado. La mobilitazione fu molto trasversale perché investì sia movimenti di base, movimenti popolari, che settori operai, che settori legati alla pesca e all'impiego pubblico. In ese momento tampoco la prensa difundió nada hasta que se nacionalizó y fue un escándalo y no lo podían ocultar. Luego, en el 2023, volvió a suceder lo mismo en Jujuy, ya con el gobierno de Alberto derrotado, ya yéndose. En la última fase, ya con Massa dirigiendo el gobierno. Ah sí, en el 2023, en l'ultima fase del governo peronista, que era ya una fase di decadenza, ci fu di nuovo un'altra lotta simile a Jujuy, che invece è una provincia nel nord, quasi verso la frontiera con la Bolivia. Claro, ahí era una reforma constitucional para entregar tierras de las comunidades indígenas a las multinacionales donde se extrae el litio. Riforma costituzionale per permettere di consegnare terre ancestrali appartenenti agli indigeni dove ci sono riserve di litio. Bueno, todas estas medidas las permitió el gobierno progresista y ningún analista político, casi ninguno, quizá de la izquierda alguno, toma en cuenta estos sucesos. Hoy en día no se habla de los errores del pasado, no tienen en cuenta a los gobiernos socialdemócratas progresistas muy light, ¿no? Oggi come oggi nessun analista che si indigna tanto per quello che sta facendo l'attuale governo tiene conto di quelli che sono stati gli errori del passato che in qualche modo hanno permesso a Milei di fare quello che sta facendo. Quindi c'è, me pare siete capito di intendere todavía un silenzio su questo tipo di situazione politica che queste situazioni che lui ha descritto praticamente percorrono tutto l'ultimo governo, gli ultimi 4 anni che precedono poi l'arrivo al potere di Milei. Entonces, más allá del contexto mundial que ha hecho que porque las ultraderechas han avanzado vienen avanzando en todo el mundo, la particularidad argentina tiene que ver también con un consenso. Hoy en día hay un consenso por avanzar en el extractivismo de todos los sectores de la fuerza política gobernante. Ese es quizá uno de los problemas principales para contener a Milei. Porque Milei no ha tenido el apoyo de los medios de comunicación, no ha tenido el apoyo de las fuerzas políticas, hasta vieron que se hizo real su poder y ganó. Hoy están, ¿hasta qué? Hasta que ganó las elecciones. Se encolumnaron detrás el proyecto burgués dominante para terminar con esta, con ese empate hegemónico que habíamos mencionado al principio, si se entiende. Tú estás diciendo, repite el tema. Milei no ha tenido apoyo de los, no ha tenido apoyo de las fuerzas políticas tradicionales en Argentina. No ha avuto el apoyo Milei da parte de las fuerzas políticas tradicionales. Hasta llegado al gobierno, nadie pensaba que iba a ganar. Finché arrivava al gobierno, porque nessuno puntaba su di lui veramente. Claro. Ese contexto lo logró por la lo tibio del progresismo. Certo. Medidas, claro. Lui arrivò al potere per l'attitudine di timidezza e in qualche modo di complicità con ese modello extrattivista da parte del progressismo. Claro. Cioè, perché arrivò al potere grazie anche a questa attitudine di timidezza e di complicità del progressismo nei confronti del modello extrattivista. Entre ensos, il modello extrattivista. Esatto. Una idea politica de que para detener a la derecha había que darle concesiones a la derecha, no ser radical. Sí. La idea política que para contener la destra bisognaba dar concesiones a los poderes económicos más importantes del país, fra cui el poder legado a la industria mineraria, digamos. Claro. Hoy en día, esa clase dominante se unificó detrás de Milei y le da el poder, el apoyo popular a Milei. Porque Milei representa en Argentina este cambio histórico. Describa las diferentes componentes de esta clase dominante que se agrega con Milei. Claro. Le sto chiedendo di descrivere quali sono le diverse componenti di questa borghesia che alla fine si unisce a Milei. Vabbè, la borghesia extractivista y después. Claro. Terminar con el sector industrial y el movimiento obrero en Argentina, el clásico. Los beneficios para apuntar una economía, reprimarizar la economía y una economía 100% exportadora. Entiendo. O sea, terminar con lo que era la burguesía nacional, entre comillas. No sé cómo se dice. Sí. La patria contratista, que vive bajo el Estado, ¿no? Tampoco. Lui sta dicendo che una delle missioni di Milei era quella di chiudere con un'ipotesi di sviluppo industriale nazionale e tornare a un'ipotesi di primarizzazione dell'economia, cioè sarebbe dire di un'economia dove sostanzialmente si esportano prodotti primari dell'industria o dell'agricoltura o dell'attività zootecnica. E qual sono la forza sociale della borghesia argentina que son más de acuerdo con ese tipo de modelo? Son los extractivistas, los agroexportadores y ¿quién más apoya ese tipo de modelo? En este momento yo creo que hay el poder financiero, por supuesto, ¿no? Pero hay una coincidencia de la gran burguesía argentina que hay que apoyar a Milei para que haga esa tarea sucia histórica. Para, por ejemplo, terminar con el sindicalismo. Quindi incluso la misma burguesía industrial apoya sí, este proceso. Sí. Que alla fine lui unisce tutti i vari segmenti della borghesia, da quelli che già erano sostenuti dal peronismo, alla finanza, agli agroesportatori, alla stessa borghesia industriale nazionale che in fondo condivide la caratterizzazione fortemente antisindacale del progetto politico di Milei, che fra le altre cose propone anche la riforma del lavoro e tutta una serie di cose. Una riconversione di questa burguesia hacia il settore finanziario, también? Sì. Bueno, non so come spiegarlo. Riconversione della borghesia verso il settore finanziario, claro. Más o meno è parecido en. Claro. De esa burguesía industrial, tú dices. Sí. Della burguesia industriale verso il settore finanziario. Y lo que es la oposición a Milei, la histórica oposición a Milei, está totalmente desarticulada. No, hay una sorpresa entre la oposición política al el peronismo. Hubo una elección hace unos días en 4 provincias. La oposizione istituzionale a Milei è ancora fortemente disarticolata e frammentata. Qualche giorno fa c'è stata una elezione locale dei parlamenti in 4 province. Claro. L'ultimo fine settimana. Claro, la oposizione che estuvo incarnata nel governo anterior con Alberto Fernández occultava o tenía un discurso che trattava di occultar il che in Argentina había cada vez más pobreza. ¿Cómo llega Milei? Es porque Argentina había cada vez más pobreza, cada vez menos derechos laborales, y el gobierno, en vez de dar una respuesta concreta, cedía ante la derecha. ¿El gobierno me da? El gobierno de progresista de Alberto Fernández, en vez de dar una respuesta concreta, cedía al aumento de la pobreza, a la caída cada vez más de derechos sociales. Che già aveva, sì, con il governo di Fernandez. Accompagnato per una esplosione dell'inflazione. Quello che ancora oggi l'opposizione e in particolare il peronismo tende a negare è che il terreno che prepara l'arrivo di Milei era un aumento della povertà e dell'esclusione sociale già durante il governo precedente. Tuttavia su questo non c'è una vera riflessione da parte di questa opposizione istituzionale che si vuole opporre a Milei, però ancora non fa i conti con le ragioni per cui Milei ha vinto sostanzialmente. Claro, sucedió che quando ganó Milei fue como explotó una bomba, cómo llegó Milei al poder, y después pasó una situación de que decía todos pensaban que iba a durar poco en el gobierno por las características personales de Milei y el discurso que tenía antes de ganar. Que tutti era... si illudevano che sarebbe durato poco Milei per il carattere un po' folcloristico del personaggio, per i discorsi un po' iperbolici che faceva anche prima di arrivare alla presidenza. Pero ya llevamos un año y medio de gobierno, él se ha mostrado muy pragmático y ha contenido la inflación, que ha pasado de 3 dígitos a un 4-5% por mes. Y eso es mucho en Argentina. Lui invece si è dimostrato molto pragmatico perché, per esempio, è riuscito a contenere l'inflazione che prima era arrivata a 3 cifre e che adesso invece è comunque alta, però meno di quello che era nell'ultima fase del governo di Alberto Fernández. Adesso l'inflazione è più o meno il 4-5% al mese, che vuol dire comunque un 50-60% l'anno. La pregunta es cómo Milei cómo un personaje como Milei logra la estabilidad económica, ¿no? La domanda è come fa un personaggio come Milei a raggiungere, a guadagnare la stabilità economica. La campagna di Milei fu che lui iba a ganare ajustando. Tutto questo che hizo Milei di ajustare, ir contro i planes sociali, contro le condizioni di lavoro, la dijo in la campagna. O sea, la campagna di Milei era ridurre le spese sociali. Un programma che fu rivendicato durante la campagna elettorale. Claro, come che captò la sensazione antipolitica, la gente già aveva un'idea già schiada della politica. La gente era schifata dalla politica. E la gente appoggia, lo stiamo parlando, ¿no? L'altro candidato è un candidato del peronismo molto mal visto e la gente preferiò votare lo nuovo. Aunque sia un loco, no? Fra un candidato peronista molto mal visto e abbastanza di centro come Massa, che fu quello che si presentò come alternativa a Milei, la gente ha preferito una novità, anche se uno che sembrava un mezzo matto, la motosega e tutte le robe che sappiamo. E ora l'altra novità è che Milei llega al governo in contra, no, al principio non tenía pubblicità nei media di comunicazione. Y toda su comunicación política fue en las redes sociales. Mientras los políticos clásicos estaban en la televisión o en la radio, Milei trabajó mucho con los jóvenes en redes sociales. All'inizio lui non aveva molto accesso ai mezzi di comunicazione principali e quindi lavorava molto sulle reti sociali, sui social media e lavorava molto sui giovani. Y en esto también hay una pregunta si nosotros desde la izquierda no estamos trabajando en redes sociales. Si nos hemos quedado con formas de comunicar política antiguas cuando ha habido una revolución tecnológica, una revolución social, y donde la comunicación política, más que nada en la juventud, está pasando por las nuevas tecnologías, ¿no? Ci domandiamo se anche la sinistra non sia rimasta legata a forme di comunicazione arcaiche, mentre con la rivoluzione tecnologica che c'è stata, soprattutto i giovani ormai comunicano con delle modalità molto legate all'uso dei nuovi mezzi, lo smartphone, eccetera, eccetera. Perché tutto questo che stiamo contando delle comunicazioni della nosotros della controinformazione, queste rebeliones che hubieron anteriores a Milei, todo se comunicó mediante teléfono. No lo cubría ni la televisión ni la radio, o pequeñas radios, pero no los medios masivos, no lo tomaban. Entonces, estas nuevas tecnologías, que son contradictorias, porque por un lado nos controlan, también sirven para la comunicación alternativa. Questo tipo di comunicazione è contraddittoria perché da un lato è una comunicazione che serve per controllare, per irregimentare, indottrinare, influenzare i giovani, però dall'altro queste forme di comunicazione nuove stanno servendo anche per le ribellioni che si sono verificate in questo periodo contro il governo Milei. Cioè gli stessi strumenti possono essere utilizzati per finalità diverse. Claro. Entonces ahí hay como una... En Brasil, por ejemplo, otro ejemplo de la contracomunicación ahora con las nuevas tecnologías, del lado de la derecha, ¿no? Cómo llegó Bolsonaro, digo, para pensar un poco que estamos en esta gira es para expresar la militancia de contrainformación, para construir una red internacional de contrainformación. Y muchas veces contamos algunos ejemplos también que hubo en Latinoamérica y que funcionamos en redes, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvo la rebelión en Ecuador, no sé si acá, en Ecuador, en Colombia, en Chile, las revueltas, la comunicación vía celulares y vía redes sociales sirvió para contrarrestar lo que los medios hegemónicos ocultaban. Y muchos pequeños grupos de 5 o 10 militantes que tenían un medio de comunicación, rivalizaron con los medios hegemónicos en los momentos de rebelión social. Está diciendo que anche dal lato dei movimenti e della sinistra si sta cominciando a usare questi strumenti di comunicazione nuovi per contrarrestare l'influenza dei mezzi egemonici e questo è stato fatto anche sullo scenario continentale rispetto alle ribellioni che ci sono state in questi ultimi anni in Ecuador piuttosto che in Cile. Quería que tú entres más en el tema de cómo hasta ahora, en un año y medio, los movimientos sociales, los movimientos de lucha han intentado de construir una resistencia al proyecto de Milei. Le estoy pidiendo de entrar un poco más en el mérito de cómo en este año y medio los movimientos de lucha han intentado de construir una resistencia, una oposición al gobierno de Milei. ¿Con cuál es contenido? ¿Con cuál es instrumento? Che tipo di discussione politica hai entre la differente tattica per infiltrare Milei, se hai differenza politica, cioè di entrare un po' più nel merito non solo delle pratiche di opposizione ma anche del dibattito e delle differenze politiche fra le varie tendenze e le varie tattiche. Claro, Milei apenas llegó al gobierno atacó al movimiento piquetero che si chiama, no? Al movimiento desocupados. Lo atacó de dos formas. Primero, había un malestar social con el aumento de la pobreza y los medios de comunicación, un bombardeo sobre la herramienta de lucha que era el corte de estrada, ¿no? El primer objetivo de las políticas de Milei son los movimientos piqueteros, o sea, los desocupados organizados. in una situazione di malessere sociale, di aumento della povertà, l'attenzione di questa propaganda del governo si è centrata contro lo strumento dei blocchi stradali, che era una delle forme di lotta principali dei picheteros, che si chiamano picheteros per questo. Con la doble estrategia de ataque fue la judicial, judicializar a dirigentes de las organizaciones, acusándolos de corrupción. Prima cominciarono montando processi giudiziari contro i dirigenti dei movimenti piqueteros, accusandoli di corruzione. Al tiempo que los planes sociales congeló el valor del plan social y la misma inflación lo fue perdiendo sentido al monto. Hoy son 78.000 pesos, que es una miseria. Praticamente l'altro attacco è avvenuto sul versante economico, congelando gli importi dei sussidi e in una situazione di inflazione galoppante che già di per sé bruciava parte di questi valori. Attualmente il valore di questo plano social è di 78.000 pesos al mese, che sono 70 euro praticamente, 70 euro per mese. Cioè. Y la otra fue desvincular a las organizaciones políticas del plan social. O sea, a algunas familias que están muy en urgencia, desviarlas hacia otro plan que no esté en las organizaciones políticas mediando. L'altro strumento è stato svincolare i beneficiari dei piani sociali dai movimenti di base, che nella fase precedente funzionavano un po' da intermediari. Cioè, nel senso che c'erano delle vertenze, delle rivendicazioni, delle lotte, e un po' come accadeva nelle liste di lotta dei disoccupati organizzati a Napoli, tanto per capirci, il progetto di Milei era anche quello appunto di svincolare l'erogazione di questi piani miserabili dai movimenti di base, per togliere potere ai movimenti di base stessi. E acá Milei dividió su estrategia. Porque en el movimiento piquetero hay dos tendencias. Una tendencia ligada a la oposición peronista, más estructurada en el Estado, y un sector piquetero más desde la izquierda, que tenía más presencia en la calle, la que más usaba el instrumento. Se decidió atacar esa, ¿no? Storicamente il movimento picchettero in Argentina era diviso in due tendenze, una più vicina al peronismo e con maggiori legami anche con la macchina statale, diciamo, quindi funzionari legati ai movimenti picchettero che erano nel governo, eccetera, eccetera, e un'altra tendenza invece più legata alla sinistra, che invece aveva più un radicamento sociale nei quartieri e nei territori. Así fue que bajó mucho los cortes de calle y hoy lo exponen como un logro. E fu così che è riuscito a ridurre di molto i blocchi stradali e oggi lo sbandiera e rivendica come una grande conquista del suo governo. La contrapartita di eso è perché la pobreza aumentò, o sea, per sobrevivir, volvieron a surgir ollas populares, come en los inicios del movimiento piquetero, están surgiendo ollas populares para contener el hambre de la gente. Pero ya desvinculadas de esas organizaciones. O no vinculadas por el plan social, sino por la olla, el comedor social. Como forma espontánea, decimos. No sé si quizás son las mismas organizaciones, pero que empezaron de cero de vuelta, sin el plan. Adesso descriviamo bene. Lui sta dicendo che la contropartita di questo processo, che era centrato appunto sul combattere queste manifestazioni di strada che avevano nel blocco stradale la forma principale. E la contropartita, l'effetto collaterale, diciamo, è stato che si è tornata a sviluppare questa forma delle ollas popolari, sarebbero le pentole popolari. Descrive meglio questo tema della olla popolare, che è concretamente? Gli sto chiedendo di descrivere concretamente che sono queste, cioè praticamente i movimenti piquetero, per sopravvivere e rimanere vivi, per mantenere viva la propria struttura, hanno cambiato tattica e quindi dai blocchi stradali sono passati alle pentole popolari. Claro. Ahora nos explica mejor qué es la olla popolare. El surgimiento del movimiento piquetero fue con los grandes despidos que hubo en la década de los 90. junto, o en algunos casos fue previo al corte de calle, era hacer una olla popular, que era hacer una comida para la gente que no tenía para comer. O sea, lui sta dicendo che lo stesso movimento picchettero è nato negli anni 90 intorno alle lotte degli operai licenziati durante le grandi privatizzazioni del governo Menem, e ancora prima di iniziare a fare i blocchi stradali si iniziava con le pentole popolari, che erano fra l'altro necessarie perché la gente licenziata non aveva soldi, non aveva da mangiare. Quindi fu là, allora, già allora fu la prima, una delle prime pratiche, questa della soglia popolare. Claro. La olla popular que se hacía en una casa, después pasó a hacerse en la calle. Y las mujeres eran las que hacían la olla popular y estructuraban, eran el corazón del movimiento piquetero. Praticamente iniziarono a fare queste pentole popolari dentro le case e poi cominciarono a farle nelle strade e furono il nucleo intorno al quale cominciò a costruirsi e a svilupparsi il movimento piquetero, questa pratica della soglia popolare. Bueno, eso está sucediendo de vuelta como una forma de repliegue, porque se redujo mucho el movimiento piquetero, su capacidad de movilización y organización. Pero una forma de repliegue fue como volver a esas ollas, ¿no? Questo ritorno alla ollas populares può rappresentare una sorta di ripiegamento tattico per consentire al movimento di sopravvivere in un momento in cui comunque le mobilitazioni di piazza, di strada, si sono ridotte in modo sensibile. Eso es el movimiento piquetero. El movimiento obrero organizado, quizá. Decimo quali sono i diversi aspetti dell'opposizione. Quizá para un actor social muy importante en Argentina, el movimiento obrero organizado. Parliamo adesso del movimiento operaio organizzato. Con una estructura grande, muy debilitada, pero muy ligada al Estado, ¿no? En Argentina el sindicalismo está muy unido al partido peronista, que es el partido de gobierno, hoy la oposición, y muy ligado a la corrupción también. A la corrupción. Sí, con mucha corrupción. La estrategia de Milei fue amenazar, muy parecido a lo que había hecho Menem en los 90, ¿no? Amenazar a la dirigencia más corrupta y obligarla a negociar a un sector de ese movimiento obrero formal con antecedentes corruptos, negociar a otro sector del movimiento obrero, de la dirigencia del movimiento obrero, muy en línea con la idea política de la oposición peronista en general, ¿no? Estoy hablando en general, de esperar a que el gobierno se caiga solo. Lui está diciendo que el movimiento operaio organizado en Argentina es siempre stato legato al peronismo, quindi a una logica anche di potere, un partito che è stato spesso al governo, e con una parte della dirigenza molto corrotta. E quindi la logica di Milei è stata quella, partendo dalla corruzione di questi soggetti, di obbligarli in qualche modo a negoziare, a contrattare col governo. Dall'altro lato invece un altro problema è un'altra tendenza sempre dentro al peronismo che potremmo chiamare attendista, cioè non facciamo niente, non muoviamo grandi casini, aspettiamo che il consenso a Milei si in qualche modo indebolisca da solo man mano che va avanti con le sue politiche. Claro, muchos representantes obreros decían que sus bases habían votado a Milei, y esa era una realidad, ¿no? Habían votado a Milei y apoyaban a Milei. Una parte della base operaia aveva votato per Milei. Claro. Ahora, un año y medio después, con los despidos y con las restricciones, con el aumento de la pobreza, y lo que pasó con Milei fue un achicamiento del salario. Un anno dopo, con congelamiento del salario. Un anno dopo, con l'aumento della povertà, i licenziamenti sia nel settore pubblico che in quello privato e la riduzione dei salari, che passa? Un año después de todo eso. Un año después de todo eso, han empezado a ver los primeros conflictos sindicales, pero que la estructura trata de contener. Un anno dopo, un anno e mezzo dopo, cominciano di nuovo a vedersi dei conflitti a livello sindacale che però la struttura dirigente burocratica cerca di contenere. Claro, quizá il sector público, il más castigado, donde Milei hizo eco de que hay que destruir al Estado y hubo miles de despidos. Soprattutto nel settore pubblico, che è stato quello più castigato, dove ci sono stati migliaia di licenziamenti, io credo 30-40 mila, no? Sì. 30-40 mila, algo del settore. Fu il más activo, però aislado. In soledad. È il più attivo il settore pubblico, però nello stesso tempo è un po' isolato. Por ejemplo, hoy en día, y ahí capaz está bueno pasar el otro video, donde muestra primero un sector que quizás hizo más conocido, que son los jubilados. Jubilados y pensionados están yendo todos los miércoles al Congreso a protestar, hoy, hace un rato. Y esas movilizaciones tomaron carácter nacional porque los jubilados no están llegando a fin de mes y le han recortado medicamentos y están en una situación muy crítica. Un settore importante che si è mobilitato è quello dei pensionati, che praticamente fanno manifestazioni tutti i mercoledì. Queste mobilitazioni sono arrivate ad avere una rilevanza anche nazionale, perché anche il settore dei pensionati è stato molto castigato dalle politiche del governo, non solo perché gli hanno ridotto le pensioni, ma perché gli hanno anche tolto l'accesso a farmaci e cose di questo genere. Por otro lado, ha pasado un fenómeno que no sé cómo estará acá, pero las hinchadas de fútbol se han plegado a los jubilados y han participado sectores de cada hinchada de fútbol en una movilización que fue masiva, incluso y con rasgos violentos, para defender a los jubilados. Nelle ultime settimane un altro fenomeno interessante è stato la discesa in piazza di settori importanti della tifoseria a sostegno dei tifosi, che hanno partecipato a diverse di queste mobilitazioni che si fanno il mercoledì davanti al congresso. A difesa dei pensionati, e in particolare alcune di queste mobilitazioni dove hanno partecipato i tifosi hanno visto dei forti scontri, e in particolare con tutte le polemiche che si sono scatenate con la tesi del governo che los hinchas sono delinquenti, praticamente sono criminali. Quello che sostiene il governo è che in realtà non sono tifosi, ma sono bande di delinquenti, criminali, eccetera, eccetera. Claro, ha habido en los clubes de fútbol como un proceso de surgimiento de agrupaciones antifascistas o por los derechos humanos. Algo, un fenómeno nuevo también en los últimos años, que ha crecido mucho y que tuvo su mayor expresión en esta marcha apoyando a los jubilados. Claro, ma dentro de los tifosos, de los hinchas surgieron ese movimiento, sí, antifascista, sí, dentro de las hinchadas. Ah, lui sta dicendo che un altro fenomeno interessante è che sull'onda di questa scesa in campo di questi settori di tifoseria, all'interno della stessa tifoseria si sono formati nuclei che ragionano sui terreni dell'antifascismo e della difesa dei diritti umani all'interno delle tifoserie. Bueno, y después de eso han habido movilizaciones masivas contra Milei, pero grandes. Por ejemplo, en defensa, cuando Milei quiso atacar la educación pública, hubo una gran movilización en defensa de la educación pública. Cuando Milei en Estados Unidos, en una convención, dijo que los homosexuales eran pedófilos. Andavos, en Suiza. Andavos, ¿eh? Sí. Dijo que los homosexuales eran pedófilos o una cosa así. Hubo una gran movilización antifascista también en Buenos Aires, y después hubo tres paros generales, ¿no? Tres paros generales con mucha concurrencia, que ahora podemos ver las imágenes, ahí las tenemos para verlas. Poi grandi mobilitazioni ci sono state per la difesa dell'educazione pubblica dopo gli attacchi di Milei all'educazione pubblica e all'università. C'è stata anche una grandissima mobilitazione dopo che Milei aveva fatto delle dichiarazioni durante il forum economico di Davos dicendo che gli omosessuali sono pedofili e cose di questo genere. Anche lì ci fu una enorme mobilitazione molto trasversale. Aggiungo io che è solo durante queste mobilitazioni così grandi che il protocollo antipichete del governo argentino, che praticamente impone di manifestare sui marciapiedi, perché questo sono arrivati a questo lì, quando ci sono mobilizzazioni così grandi, chiaramente questo protocollo antipichetti diventa inapplicabile. E l'altra cosa è che negli ultimi mesi ci sono stati 3 scioperi generali, 3 paro generales, no? Sì. 3. Sí, sí, sí. Bueno. La pregunta quizás es por qué nada de eso ha afectado al gobierno de Milei. Ninguna otra incógnita o quizás para pensar es que no las movilizaciones masivas no están surgiendo efecto según las mediciones de las últimas encuestas. En su imagen tuvo un escándalo con una criptomoneda. Allora, l'interrogativo che c'è è se queste mobilitazioni così grandi hanno poi un effetto, riescono a indebolire il governo e il consenso che questo ha. Ultimamente un altro elemento che si è aggiunto è stato uno scandalo legato alle criptovalute. La criptolibra, sì. Seria? Descrive lo che passò? No, salió in tutto il mondo, eso, que quizás, sí. Salió, él salió a promocionar el votante de Milei. Interpela a una juventud que tiene que ver con la especulación financiera, los jóvenes. Hay una en Argentina, no sé si acá, hay idea de comprar criptomoneda, comprar, vender. Una parte del electorado giovanile di Milei ama giocare con le criptovalute, fare investimenti e speculazioni con questo tipo di, claro, di strumenti. El electorado giovanile di Milei. Bueno, y Milei salió a vender esa criptomoneda en Twitter. Y resultó ser una estafa mundial. Sí, promosse con un messaggio su Twitter una di queste criptovalute e poi ci fu un crollo dei valori di questa criptovaluta, quindi quelli che avevano comprato sull'onda dell'invito di Milei sono rimasti fregati, hanno perso dei soldi. Claro, como que ese suceso supuestamente impactó más en la imagen que las movilizaciones sociales masivas. Il dubbio, la domanda è che forse questo fatto delle criptovalute ha inciso di più sull'immagine del governo Milei che non le enormi mobilitazioni di cui si parlava prima per l'educazione pubblica, in difesa dei diritti degli omosessuali, eccetera, eccetera. E ahí surge otra incógnita. Sí. Va, una incógnita. Hay una idea de que está compartimentado la población en sectores, no una grieta, como le dicen, ¿no? En los que es la oposición y su votante. Y mantener esa división es mantener cierto esquema de poder que lo sostiene. No sé si è come se la società fosse divisa da una crepa, compartimentata. Da un lato la base sociale che appoggia il governo, dall'altro l'opposizione. Ed è interesse del governo mantenere questa compartimentazione perché questo è uno strumento di governo poi e di mantenimento del proprio potere nella società. Claro. Che si cristalizza también en un apoyo de las fuerzas políticas que él tenía minoría en las cámaras, ¿no? Sí. Todas las oposiciones políticas aceptan ese esquema de poder donde él se estabilizó una forma de gobernar, digo. Con un sector movilizando masivamente la calle, pero que no tiene efecto en la gobernabilidad. La situazione si cristallizza perché tu hai da un lato un settore crescente che si mobilita in piazza, però questo non ha effetti sulla governabilità, nonostante Milei non abbia una maggioranza parlamentare né al Senato né al Congresso, però alla fine riesce bene o male a far passare le leggi che gli interessano di più, insomma. Quindi c'è come una divisione fra quello che accade a livello istituzionale, parlamentare, nella dimensione dei vari livelli del potere e la piazza. Claro. Y en este esquema también nosotros pensamos que hay un sostenimiento internacional, ¿no? Recientemente Milei recibió un crédito de 12.000 millones de dólares, ¿no? Para sostener esa estabilidad también, creemos que parte esencial de eso es la contención de la inflación. Un altro fattore è l'appoggio internazionale che Milei sta avendo attraverso, per esempio, questo nuovo prestito di 12 miliardi di dollari che viene utilizzato da Milei per contenere la inflazione. In ese sentido, por su allineamiento internacional con Israel y con Trump, en la doctrina de América Latina volver a ser un patio trasero. A questo, in questo influisce anche la nuova dottrina di Trump di tornare a fare dell'America Latina il cortile di casa degli Stati Uniti e l'allineamento di Milei al governo di Israele. E la funzione di Milei come ariete di questa politica in tutta l'America Latina? Beh, questo non ha bisogno di traduzione. No? Questo non necessita traduzione. Sì. Bien. Ese es el escenario hoy en día de la situación de Milei. Aunque todos pensamos que es muy frágil igual, ¿no? Hay una fragilidad que está, que si se dispara la inflación, creemos que todo esto se explota por los aires. Sta dicendo che noi stessi abbiamo la percezione che tutto questo sia molto fragile. Per esempio, se esplode di nuovo l'inflazione, salta di nuovo tutto. Claro. Por la creciente pobreza, por la estabilidad, la inestabilidad social que hay. Por los niveles de pobreza, por la inestabilidad social. Claro. Quizá la palabra que resume todo es que la gente todavía tiene esperanza en que Milei va a cambiar Argentina, a pesar de que cada vez está peor. Nonostante está siempre peggio, c'è un settore della popolazione che continua a pensare che Milei cambierà in meglio l'Argentina. Y quizás su fortaleza es que más que su fortaleza sea que no sea un loco, se muestre como por fuera de la política y no tenga otra alternativa, que no haya nada que se muestre como alternativa a Milei. Desde la izquierda hay un libro conocido en la Argentina que dice la rebeldía se ha vuelto de derecha, ¿no? La izquierda ha quedado atrapada en esa idea de casta política en Argentina. Un altro fattore importante è che sta passando in Argentina questa idea che la ribellione adesso è a destra e che la sinistra viene vista come una espressione ulteriore della casta dei politici e siamo ancora un po' intrappolati in questa situazione dove non viene vista un'alternativa a Milei in qualche modo, no? E hai dentro dello movimento sociale, lo movimento di base, discussione politica sobre differente forma per affrontare la situazione? Hai differente proposta, hai discussione? O hai una frammentazione di vario tipo di movimento e di pratica che si desarrollano? Che tipo di debate hai sobre qual è la forma mejor di affrontare Milei? Credo che il debate oggi in día. El debate, primero hay desconcierto y fragmentación. C'è disorientamiento y fragmentación al interno de las varias realidades de oposición. Quizá hay una revisión del pasado de cómo, por qué la izquierda. Primero, ¿por qué la izquierda quedó pegada a esa idea de casta política? ¿Por qué la izquierda no se llegó a diferenciar de? Perché la sinistra è rimasta attaccata a questa immagine di essere parte della casta politica? Perché la sinistra non è riuscita a distinguersi da questa? Perché non logrò presentare un'alternativa? Perché non è riuscita a presentare un'alternativa? E ahí hay una idea de quanto jugó il rol internacional a tutto questo e quanto lo nacional, ¿no? En sí. Y dentro de. Dentro de la militancia del peronismo de izquierda, que bueno, el fenómeno peronista es complejo, hay muchos compañeros que también son peronistas y están dentro de la izquierda, no sé cómo explicarlo. El peronismo es un fenómeno muy complejo, ci sono anche dei compagni que están en el peronismo, ma sono di sinistra. Que también tiene una idea de cambio social, ¿no? De revolución social. Que anche loro hanno un'idea di cambiamento sociale, di rivoluzione sociale. Pero que. El peronismo de izquierda y todo ese sector de izquierda ha construido una militancia que ya no sale a la calle, que no se enfrenta, que es muy ligada al Estado, a lo institucional. Pero la militancia de sinistra del peronismo ha construido una militancia que es muy ligada al Estado, a las instituciones, que no scende en strada, no afronta directamente el gobierno. Y que está desconcertada porque no tiene iniciativa ante este fenómeno. E che non ha fondamentalmente non ha un'iniziativa politica. Claro. Bueno, ¿qué hacemos? Vemos el otro video y después vemos si hay algunas preguntas. Sí. Sí, perfecto. Si intende bene? Possiamo vedere il video breve, poi magari se c'è qualche domanda che volete fare a Federico. Claro, chissà, non so se avrà intendito, io credo, ma o meno se ha intendito, credo, vabbè. Qualche già pregunta e chiala un po'. Ahora aquí en el Congreso, en la marcha de los jubilados, represión de la Policía Federal. Masiva, ¿no? Esta es la marcha en defensa de la educación pública, ¿no? Este es el paro general, uno de los paros generales. No me acuerdo de eso. Y este es un fotógrafo de los medios alternativos, Pedro Grillo, un compañero que... Ferido gravemente. Sí. Ferita grave al cranio con un candelotto lacrimogeno sparato a bruciapelo. Va bene, io direi che se qualcuno vuole fare un intervento, interventi o chiedere qualcosa a Federico, mi sembra che sia il momento giusto. Vai qua. Grazie. Allora, lui ha detto che la situazione attuale è quella di... quindi un paese che è in aspettativa, perché comunque c'è stato un contenimento all'inflazione e quindi si cerca di vedere che cosa succede. Sì. Te lo posso spiegare anche in spagnolo, non hay problema, soy argentino. Sì. Parto in italiano e poi te lo dico in argentino. Allora, e quindi c'è questo paese che è in aspettativa, perché comunque lui è riuscito a contenere questa inflazione che è galopante e quindi fa un po' comodo comunque alla gente, e nonostante questo sia in pieno contrasto con i diritti sociali, le lotte di classe e tutto quello che lui ha menzionato precedentemente. Quindi la domanda è questa: non è che comunque c'è stato un cambio di paradigma nel pensiero generale del paese? Te lo dico, tu dijiste antes che la popolazione sta in aspettativa, sì, perché de todas maneras lo que hizo Milei es contener la inflación. Y la gente, es verdad, está apretada en una morsa y es cómodo estar en esta situación, que no obstante él haya aplastado todos los derechos sociales y las luchas de clase, la gente, la pregunta es, no es que ha habido un cambio de paradigma en el pensamiento general de la población argentina. Digamos, están vendiendo los derechos sociales por una estabilidad económica. Yo creo que mucha gente se pregunta eso. Es la pregunta que estaba viendo ahora. ¿Hasta cuándo? O sea, si ha pasado algo, es una sorpresa de mucha gente que pensaba que estábamos en una situación y resultó ser otra. Creo que este es el momento de desconcierto, que es lo que pasó, cómo llegó, porque se hablaba de los derechos laborales y el sector informal era cada vez más grande. La juventud decía, yo no tengo derechos laborales, ¿por qué me hablan de derechos laborales? Porque quizás era todo, una gran mayoría de precarizados. El sector informal creció mucho en la Argentina, y la pobreza. y el discurso de los derechos laborales en una juventud donde no existen golpeó mucho. Rispetto a quello che dici tu sul cambiamento di paradigma, lui dice che se nel tuo paradigma c'è insistere molto sulla questione dei diritti del lavoro, con una popolazione giovanile che è in buona parte informale o precarizzata, questo tema dei diritti del lavoro morde di meno, piglia di meno. Claro, quizá hay un deterioro en general, o sea, la escuela pública en Argentina está en crisis completamente. Como te decía, la comunicación política, esto de que nadie vio que Milei estaba construyendo en espacios donde no se trabajaba políticamente, donde no se... en Argentina los seguidores... es interesante ver, nosotros somos un medio de comunicación, ¿no? Y nuestro... parte de esto de contar lo que pasa en Argentina y Milei es también de explicar por qué es importante la comunicación alternativa y cómo jugó roles en todas estas situaciones y movilizaciones masivas y rebeliones provinciales. La comunicación alternativa fue protagonista porque los medios hegemónicos estaban muy atados a lo que sucedía con la problema de cúpula e internas políticas, y por otro lado sucedían otras cosas, y en ese sentido el fenómeno Milei, de que vino por otro costado de las redes sociales, donde la derecha está teniendo mucho trabajo, y es no solamente en Argentina, ¿no? En el surgimiento de los QAnon en Estados Unidos, la derecha unida a discursos mágicos e irracionales que interpelan a la juventud, esos espacios fueron perdidos por la izquierda. ¿Sí está bueno traducir eso? Fueron perdidos. Perdidos por la izquierda, claro. Sí, los espacios de comunicación de las nuevas tecnologías. Ah, sì, sta tornando su quello che un po' aveva detto prima, sul fatto che la sinistra non aveva mai impegnato a fondo il terreno dell'uso delle nuove comunicazioni, dei nuovi mezzi di comunicazione, cosa che invece Milei ha fatto, oltretutto utilizzando anche leve di pensiero magico e irrazionale. E questo è altro terreno che la izquierda nunca, però, nunca, claro. Perché la izquierda tiene una forma razionale di poner la cosa, no tiene una... Milei ha costruito un arcipiélago de divulgadores, streamings, TikTok, gente individuales que se conectan entre ellos y formaron como una red comunicativa donde incluso se difunden ideas antiguas, fascistas, de una revisión histórica de algo que no es de la juventud, donde hablan de la derecha fascista en los 70, de los crímenes, y lo mezclan con discursos juveniles en lugares donde las fuerzas tradicionales no tenían. Y ese fenómeno tiene que ver con lo irracional también, eso, como el pensamiento irracional, de odio, de emocional, mágico. Sì. Nuova forma, sì. Queste forme di pensiero irrazionale e magico stanno puntando a creare questa comunità di odiatori, dice lui, mescolando piani anche diversi, inclusa una riscrittura della storia degli anni 70 in Argentina e di quello che passò dopo l'instaurazione della dittatura militare nel 76. In che senso il discorso irrazionale o magico si inserta sopra il tema della memoria, della dittatura, dello desaparecido? In che forma se va? Mi sto chiedendo di spiegare meglio com'è che questo discorso magico e irrazionale si coniuga con quest'altro cavallo di battaglia di Milei, che è il negazionismo rispetto ai crimini della dittatura, che è un altro dei cavalli di battaglia di cui non ha parlato, ma che esiste como, anche quello. Claro, è come... Si hubiese un ejemplo acá en Italia, ¿no? Un video de un delincuente inmigrante, y si estuviese Mussolini, esto no hubiese sucedido nunca, ¿no? Una cosa, sí, mezclando, sí. ¿No? Sí, sí. Cuestiones actuales con una estética moderna, todo eso sí. Con una estética moderna en pequeños videos o piccoli video dove si mescolano questioni attuali con questioni storiche. con un'estetica moderna, però riferimenti a un passato. È come se qua si facesse un video dove c'è l'immigrato che ruba e dall'altro lato spunta fuori Mussolini. Se ci fosse Mussolini, tutto questo non succederebbe. Claro. Con questa forma di comunicazione, nosotros como de contrainformación, creo que es algo que tenemos que abordar, tomar y dar el debate, incluir a jóvenes, incluir nuevas tecnologías, pero también, manteniendo que la comunicación es colectiva y desde abajo, ¿no? En forma colectiva, porque las nuevas tecnologías también trabajan mucho lo individual. Hoy en día los comunicadores son personas en YouTube o en nombres, no colectivos de comunicación. Lui sta dicendo che noi dobbiamo entrare nelle nuove forme di comunicazione e nell'uso dei nuovi strumenti, però mantenendo quell'approccio per cui la comunicazione è una costruzione collettiva, perché spesso l'utilizzo di questi nuovi strumenti invece si basa su una estrema individualizzazione sia di quello che produce informazione come individuo sia di quello che la riceve, mentre invece loro mantengono questa logica di tipo collettivo. Una caratteristica del governo de Milei è un despliegue comunicacional nuovo che non había antes. Incluso ha dato partidas ha recreato il servizio di intelligenza e ha creato con questa caratteristica de comunicacional, ¿no? Ha creato un centro de, le decimos ya trolls, ¿no? Trolls, los sí, trolls. Sí. En la casa de gobierno hay ejércitos de trolls trabajando ese tipo de comunicación. O sea, eso creo que fue otra ¿y el servicio valoración del gobierno de Milei? ¿El servicio de inteligencia cómo entra en este tema? Multiplicó el presupuesto y se direccionó para hacer un trabajo de redes sociales. Lui está diciendo que es stato aumentado el financiamiento, el bilancio dei servizi di sicurezza, dei servizi segreti interni, orientandolo molto anche all'incentivazione di queste forme di comunicazione, costruzione di eserciti di troll, eccetera, eccetera. Habrá que ver si. ¿Qué pasó en el medio? Digo, yo creo que si cambió el paradigma social de la gente, o si cambió el paradigma social y cambió la forma de hacer política, y ahí quedó un hueco que la izquierda y una crisis de los valores democráticos, ¿no? Que está habiendo en todo el mundo, pero si la izquierda también no dimos respuesta a eso, si no logramos crear una alternativa a lo democrático. Alla crisi lo democratico? È una domanda aperta. Domanda aperta. Sicuramente una crisi dei valori democratici, nei quali si è inserito sicuramente Milei e quello che Milei rappresenta, mentre invece noi come sinistra non siamo stati capaci di produrre, di proporre un'alternativa a questa crisi dei valori democratici. Alberto, viene acá, por favor. Ecco qua. Bueno, la idea que la rebelión se ha vuelto a la derecha se está difundiendo también aquí, lamentablemente, en Europa. Pero en Argentina hay partidos políticos que se presentan como revolucionarios. Mi primera pregunta es... si estos partidos están creciendo y si tienen un proyecto. Y la segunda pregunta es si sigue en Argentina la memoria del 2001, de lo que aconteció en el 2001 y si es un objetivo volver a una situación como la que pasó en el 2001. Traduco. Cioè, la prima domanda è che lui prima ha accennato al fatto che si sta diffondendo in Argentina l'idea che la ribellione e sia qualcosa di destra e non di sinistra, che è una, un'idea che si sta diffondendo ovviamente, come vediamo, anche in Europa. Però una differenza con l'Europa è che in Argentina ci sono dei partiti politici che si presentano come rivoluzionari, partiti ovviamente politici di sinistra. E quindi la prima domanda è se questi partiti stanno reclutando, se stanno crescendo, avendo un consenso crescente, e se hanno un progetto politico effettivamente rivoluzionario. E la seconda è se c'è ancora in Argentina forte la memoria di quello che è successo nel 2001, quando nel giro di pochi mesi sono stati deposti 3 presidenti della Repubblica e c'è stato il famoso, insomma, una situazione, credo, che noi non si ricorda dagli anni 70, insomma, la messa in discussione proprio del potere politico all'interno di un paese a quel livello. Bueno, la cuestión de partidos revolucionarios, no sé si menciona a la izquierda, vos decís, que se claro, llama. Claro. Sí, sí. Bueno, yo creo que la izquierda se mantiene activa, resistiendo. Hay un agrupamiento político que se llama el FITU, Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidos, creo que es, sí, la U. Cambiò il nome. C'è un raggruppamento politico che si chiama Fronte di Sinistra Unito e che si presenta alle elezioni. In Argentina il trotskismo è molto forte, è un'alleanza di partiti trotskistas che hanno mantenuto certo percentuale, o sea, a pesar di tutto, hanno mantenuto certo percentuale di voti. Nonostante tutto, hanno mantenuto una certa percentuale di consensi. Mettendo alcuni deputati. Hanno alcuni deputati. Y yo creo que creando algunas figuras de masas, hay una mujer que se llama Miriam Bregman. Ah, sí. Claro, no sé si es conocida acá. El libro Zurda. La Zurda, ahora sacó un libro. Tiene muy buena imagen. Creo que en eso, puntualmente el partido, se llama el Partido de los Trabajadores para el Socialismo, ese grupo PTC. Ha tenido una política, ha sido el único quizá partido de izquierda que ha tenido una política comunicacional muy acertada. Han metido mucho en las redes sociales y han hecho un viraje hacia eso, y creo que eso los ha posicionado mejor. Lo ha hecho mantener y construir una figura pública y trabajar todo el tema comunicacional mucho más ágil que el resto, dinámico que el resto de las fuerzas de izquierda. All'interno di questa alleanza di partiti di sinistra, fondamentalmente trotskisti, va risaltato il ruolo che sta avendo il PTS, Partito Socialista dello Strabacadore, che ha avuto una buona politica comunicativa, più agile, meno ingessata di quella degli altri partiti, lavorando anche sui nuovi mezzi di comunicazione, e che ha questa dirigente, Miriam Bregman, che ha una buona immagine, ha una buona presa, aggiungo io, è quella lì che durante il colloquio fra la trasmissione televisiva fra i vari candidati presidenziali fece una delle battute migliori contro Milei. Disse, sapete che lui si presentava come il leone, questa immagine del leone, produceva queste immagini, lui era il leone. Voi non so se è il leone, voi so se è il gattito mimoso dello spoderio economico. Traduce, tu non sei un leone, tu sei il gattino che fa le fusa ai grandi poteri economici. Una grandissima battuta. Fra l'altro ha scritto recentemente un libro, aggiungo pure questo, che si intitola Zurda, che è, fra l'altro, è un termine dispregiativo che viene un po' dagli anni della dittatura, di cui io non ho capito bene l'origine, e con la quale vengono indicati dispregiativamente i comunisti. Ha pubblicato adesso questo libro. Y después, con respecto al 2001, eso es interesante porque muchos analistas dicen que está ocurriendo en Argentina lo mismo que ocurrió en el 2001, pero en vez de una respuesta por izquierda, una respuesta por derecha. Lui, o sea, está diciendo, está avvenendo lo stesso del 2001, pero en vez de una respuesta da sinistra, c'è una respuesta di destra. La diferencia es que la gente ya no quiere participar políticamente. En vez de una respuesta colectiva, son salidas individuales. Y después, digo, ese es el panorama. Pero después hubo, salvo la izquierda revolucionaria, hubo una lectura del 2001 negativa que construyó el kirchnerismo sobre lo terrible del 2001, y no, nunca se hizo una valoración del 2001 como un momento donde la gente salió a la calle, donde se terminó las políticas neoliberales, se hicieron asambleas, se dio una respuesta a eso. Eso se ocultó y siempre fue una respuesta, una construcción negativa desde el progresismo sobre ese suceso. ¿Y cuál era el aspecto negativo del 2001? Que el 2001 había sido destrucción, violencia, 35 los muertos, la represión policial, como algo fuera de... Sta dicendo che in questa ricostruzione negativa della memoria del 2001 ha contribuito anche il kirchnerismo, perché ha visto nel 2001 un momento di violenza, di disordine, di morti, 35 morti in pochi giorni, e non ha valorizzato invece l'aspetto di protagonismo dal basso, le assemblee, le grandi mobilitazioni che caratterizzarono quel momento. Esa una caratteristica a su militancia que desmovilizada, justo que hablábamos antes, ¿no? Una juventud que aprendió a desmovilizada, ¿no? A no confrontamiento, a más una militancia institucional. Iba de la par, ese discurso del 2001 iba a la par de la formación de esa militancia. A questa costruzione di una memoria negativa sul 2001 si associa la costruzione di un nuovo tipo di militanza giovanile peronista, la Campora, e sarebbe la FIGC dei peronisti, molto istituzionale, poco incline a scendere in piazza, a affrontare le politiche del governo mettendosi in gioco e quindi a operare in una logica molto istituzionale. E questo si lega sicuramente a questa ricostruzione e interpretazione negativa del 2001. ¿Alguien quiere agregar más? A mí me gustaría saber cuál es tu percepción acerca de lo que vendrá. O sea, si sigue teniendo consenso, si se está modificando. Y también si hay algo como una polarización entre Buenos Aires y lo que pasa en toda la Argentina, ¿no? Yo no sé tampoco desde dónde sacó la mayoría de los votos, no sé cómo funciona el sistema, pero... No, él tuvo una transversalidad, tuvo muchos votos en el interior, en lo que le dicen las provincias del interior, las regiones. Tuvo también muchos votos en los sectores populares. Y la verdad que nosotros es también una incógnita, ¿no? Nosotros siempre tenemos una anécdota que cuando ganó Milei apostamos cuánto iba a durar. Y pensamos que la sociedad argentina iba a reaccionar contra el personaje de Milei, y a todo el mundo lo sorprendió cómo logró la estabilización. Noi anche pensavamo che Milei sarebbe durato poco, e noi stessi siamo rimasti sorpresi dal fatto che è riuscito, perlomeno finora, a raggiungere una qualche forma di stabilizzazione. Poi ha detto che ha avuto un consenso trasversale anche nelle province dell'interno e anche nei settori popolari. Con la llegada del préstamo del FMI hay expectativa de que llegue a las elecciones de octubre, de medio término que va a haber este año, y que le vaya bien incluso en las elecciones. Questo prestito del Fondo Monetario Internazionale di altri 12 mila miliardi di dollari, 12 miliardi di dollari, servirebbe per permettere a Milei di arrivare in buone condizioni, con un buon controllo dell'inflazione soprattutto, alle elezioni di ottobre, perché in Argentina esiste un sistema un po' simile a quello degli Stati Uniti, cioè a metà mandato presidenziale si fanno le elezioni di medio termine, dove si rinnova, credo, metà del Senato e un terzo del Congresso o viceversa, e che è il prossimo appuntamento elettorale importante, il primo appuntamento elettorale importante di verifica per il governo Milei. Il Fondo Monetario sostanzialmente vuole aiutare Milei a passare indenne attraverso questo nuovo appuntamento elettorale. Pero también hay una idea de que suceda lo que sucedió con el gobierno de Macri en el 2018, que también tenía una fortaleza política y todo el mundo estaba sorprendido cómo había llegado el gobierno Macri y tenía esa fortaleza política. Pero sin embargo, en una cuestión de semanas hubo una corrida del dólar, no sé cómo se dice acá, y una explosión de la inflación que terminó con protestas cuando presentó una reforma jubilatoria y se derrumbó el gobierno de Macri. Entonces, muchos hablan también que si no puede haber una repentina corrida, una fuga, y que provoque una explosión inflacionaria, una devaluación, ¿no? Lui sta facendo un parallelo con quella che fu la situazione del governo Macri in un momento in cui apparentemente le cose gli stavano andando bene, poi ci fu praticamente una crisi cambiaria, cioè nel senso che il cambio peso-dollaro peggiorò repentinamente a danno del peso. Questo ha sempre un riflesso immediato sull'inflazione, perché ovviamente l'Argentina importa molte robe pagandole in dollari, e subito dopo ci fu una crisi in questo contesto di aumento dell'inflazione, ci fu una crisi sulla questione dell'attacco alle pensioni, della politica sulle pensioni, e questo segnò l'inizio della crisi e poi della fine del governo di Macri. Per cui in qualche modo mi pare di capire hai una speranza che passi algo parecido. C'è un po' la speranza che possa succedere qualcosa del genere anche adesso, anche se per ora. Claro. Por ora non hai signos che questo va a passare, decimo. Por ora non hai signos, però hai come un accordo in generale di tutti gli economisti che l'Argentina sta mantenendo artificialmente la stabilità inflazionaria, con lo quale necesita una. Lo mismo che apostava Macri, ora apuesta Milei, che è la llegada di inversiones que suplan esa necesidad de dólares, y eso todavía no se logró. Sí. Entonces la apuesta es si lo va a lograr o va a explotar en el camino. Entonces, digo, hay una idea de que esto va a explotar, ¿no? Y creo que... ¿Y cómo se mantiene artificialmente esta inflación? ¿En qué forma? ¿A través de cuáles instrumentos se mantiene artificialmente? No, él tiene un... ¿Con los préstamos del FMI? Claro, el préstamo del FMI blindó de muchos dólares al gobierno. En Argentina, la burguesía, el poder financiero juega mucho con el tema de la devaluación, porque los que no son argentinos sabrán que en Argentina la cuestión de inestabilidad cambiaria es muy... todo el mundo está, por una cuestión histórica de inflacionaria histórica, todo el tiempo se está especulando de ir a comprar dólares. Y eso crea una inestabilidad económica. Eso lo contiene Milei ahora con un dólar, un tipo de cambio flotante, resguardado por los 12 mil millones de reservas que te garantizan que él te dice no compres dólares porque no va a subir, y mantiene un pacto con la burguesía de que no vaya a la burguesía, que es la que provoca a veces disparos inflacionarios, como arma de presión política también. Lui sta dicendo che molti economisti sostengono che l'inflazione viene tenuta bassa in modo artificiale attraverso queste iniezioni di dollari nell'economia argentina derivanti per esempio dai prestiti del Fondo Monetario Internazionale, tipo quest'ultimo di 12 miliardi di dollari, mentre invece non si sta verificando la tanto agognata ondata di investimenti esteri in Argentina, che finora non c'è stata sostanzialmente. Quindi il meccanismo di mantenimento dell'inflazione è legato più a un meccanismo artificiale di tipo finanziario, e questo quindi ha un qualche elemento di instabilità. E comunque la questione del dollaro, lui dice, è sempre stata centrale all'interno della situazione argentina, perché gli argentini fondamentalmente non si fidano del pesos, e quindi i movimenti e le fluttuazioni del dollaro sono sempre stati un fattore primario. In Argentina le case vengono vendute in dollari, per esempio, credo anche le macchine, insomma. Lo scotch también se vende en dólares. No, se venden en pesos, pero... La casa sí, pero la vivienda sí, se vende en dólares. Pero Sí, sí, sí. Sí, sí, se usa el dólar, pero aunque se venda en pesos, siempre el Estado tiene que reponer, tiene pierde reservas, porque claro, el problema económico argentino es que la importación hay que pagar en dólar. Entonces siempre, claro, claro, claro, claro, claro. La cuestión de evaluatoria es una herramienta también de la clase dominante para someter a los gobiernos en Argentina. Sí. Porque, por ejemplo, los agroexportadores son de acuerdo con el tema de devaluar el peso, porque esto le valoriza más. Exacto. Entonces no venden la cosecha, retienen la cosecha y especulan para, presionan para que devalúe el peso. Entonces, un altro fattore di instabilità è che in un'economia fondata sull'esportazione di beni primari, fra cui per esempio i beni derivanti dall'attività agroesportatrice, tutta la lobby agroesportatrice, che è sempre stata un elemento importante del potere e che fra l'altro appoggiò la dittatura all'epoca, loro per esempio premono per una svalutazione del pesos, perché siccome loro la loro soia o quello che vendono lo vendono in dollari, se si svaluta il peso, poi chiaramente loro nel momento in cui cambiano questi dollari guadagnerebbero di più, e questo è un ulteriore fattore di instabilità, perché tu hai una parte del blocco di potere che preme per la svalutazione del peso. E hay algo cruel in Argentina, hay algo cruel che per non se dispare la inflazione, los gobiernos congelan la economía para que la gente no consuma y no haya demanda de dólar. Claro. Il meccanismo perverso per controllare l'inflazione, che si fa? Si impoverisce la popolazione, si limitano i consumi per evitare che la gente consumi e che si debba importare di più pagando in dollari. Entonces Milei está con esa idea de mantener la pobreza, aguantemos dos años. Nos dice, "Bueno, en 20 años somos Alemania", decía. Ah, sí, sí, sí. Hay que aguantar porque en tantos años vamos a ser Alemania. Entonces, mantener poco consumo, poco salario, y mantener la inflación. Mantener estabilidad para que vengan inversiones a Argentina. Pero esa estabilidad se logra sin que haya derechos laborales, o sea, sin que haya sindicatos, sí, sin que haya déficit cero. Sí. Él logró el déficit cero. Otro logro de Milei, que no lo había logrado Macri, es lograr el déficit cero, ¿no? De estabilizar la balanza. Lo logró, pero no llegan las inversiones, no terminan de llegar. Cioè, praticamente la politica di contenimento dell'inflazione da parte del governo di Milei si basa sull'impoverimento della popolazione, sulla negazione dei diritti del lavoro, sulla riduzione dei salari. Cioè, il controllo dell'inflazione si avvale dello strumento dell'impoverimento della società. Nonostante tutto questo, gli investimenti non arrivano ugualmente, e lui comunque continua a dire che con queste politiche fra 20 anni noi diventeremo come la Germania, l'Argentina. Che poi per come va la Germania non so se è un augurio. La gente se lo crede, sì. La gente crede veramente. Io credo che questo che dijimos antes, per me è una questione emozionale più che razionale. Me parece que hay que empezar a pensar a la sociedad desde ahí. Y creo que la esperanza, la gente le deposita esperanza ciega. Aunque pienso que igual cayó viene cayendo su popularidad por la crisis, pero mantiene esperanza. Y creo que también algo que hablamos de que la gente vota en contra, o sea, la gente está más en contra de que vuelva el peronismo que a favor de Milei, que vuelva lo mismo, está. Así que quizá el sentimiento, hay un sector de la población que tiene más la fuerza en rechazar a lo que era antes, a que vuelva lo que era antes, que las expectativas en Milei. Entonces eso se sostiene todavía. La delusione di un settore della popolazione verso il peronismo, che ha tradito le sue promesse in maniera così clamorosa, soprattutto con l'ultimo governo, è talmente forte che quasi più che appoggio a Milei in un settore della popolazione c'è semplicemente la volontà di non ritornare alla situazione di prima. Conoscendo l'Argentina, io sai perché la destitución non è solamente hacia il peronismo, ma è sempre hacia il governo anteriore che lo ha dejado mal. L'Argentina, lo dico come argentino, che memoria corta, si acuerda sempre dell'ultimo governo che lo hizo far mal, e per questo votano in contra. Cioè, questa è la storia che si ripete, lamentablemente. Por eso dicevo che, conoscendo io personalmente l'Argentina abbiamo la memoria corta, noi ci ricordiamo sempre dell'ultimo governo precedente che ci ha fatto stare male, e quindi votiamo contro, e questa è una storia che si ripete da secoli, purtroppo. Quindi non è contro il peronismo, ma è sempre contro il governo precedente che si vota contro. Lo ripeto io quello che hai detto. Lui ha detto che l'argentino ha una memoria corta, per cui si ricorda sempre del governo precedente che l'ha fatto star male, ma non di quello prima ancora o prima ancora o prima ancora. Sì, è così. Hay mucho fracaso desde la vuelta a democracia, mucha desilusión, y creo que hay una crisis de la democracia, de los valores democráticos. En estas últimas elecciones votó muy poca gente, la tasa de no voto es muy elevada. Por eso Milei hablaba del que se vayan todos. Cuando ganó Milei cantaban un cántico del 2001, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, por derecha. También era parte de como el signo de para mostrar de dónde reclutaba Milei su fuerza social. Qui ritorna sul tema della crisi della democrazia, confermato oltretutto dal tasso di partecipazione alle ultime elezioni di cui parlavo lui prima. C'è stata una astensione abbastanza elevata, intorno al 35-40%, in un paese dove oltretutto il voto è considerato un dovere. Credo anche che per chi non partecipa al voto ci siano delle piccole multe, no? Sì. Perché ne ha multa per chi non partecipa al voto. Sì, sì. E anche in questa crisi della democrazia si è inserito Milei, perché una degli slogan della campagna fu il che se ne vadano tutti, cioè praticamente il che se vayan todos del 2001 rideclinato da destra. Altre domande o chiudiamo e continuiamo in una forma più colloquiale? Vabbè, che dire, grazie a tutte e a tutti. Se qualcuno vuole il documento che dicevo prima del collettivo di avvocati e del sito per cui lavora Federico, io ce ne ho qua alcune copie stampate, quindi ve lo posso dare. In particolare, questo lo dico a te Tommaso, una idea che aveva dato, che mi ha dato un compagno di Roma, era: visto che uno dei promotori di questo appello è un collettivo di avvocati impegnato nella difesa dei movimenti contro la repressione, se questa roba poteva avere una qualche rispondenza, un qualche riscontro nel giro degli avvocati. La butto lì. Sì, si può fare, non è che c'è proprio un giro. Sì, però buttare lì, tanto. Perché sono i loro colleghi, certo. Che sto collettivo è un collettivo di avvocati praticamente, che lavora gratis e che... Allora la domanda la faccio, si occupano di questioni di piazza o di questioni tipo anche di lavoro? Di tutto. Di tutto. Sì, tutto, guarda, il documento qua è di 8 pagine e qua spiega abbastanza bene tutto quello che fanno. E fra l'altro mi pare di capire che anche loro lavorano in collaborazione con questo giro di avvocati, un po' come una relazione tipo supporto legale e avvocati nell'epoca di Genova sostanzialmente. Comunque è a 360 gradi l'impegno, processi per lavoro, processi legati a violenza di genere, processi difesa di persone arrestate durante manifestazioni, ma anche difesa di immigrati. Per esempio in Argentina ultimamente sono arrivati anche ondate di immigrati senegalesi che vendono in strada, e anche loro sono stati oggetto di molte iniziative repressive, soprattutto da parte dei governi locali, quindi è un lavoro un po' a 360 gradi. Vabbè, questo possiamo fare, siccome questo documento di 8 pagine io non l'ho avuto, adesso lo mettiamo per chi è interessato sulla pagina dell'appuntamento di oggi sul sito dell'Archivio Moroni. Esatto. E poi lo facciamo girare, ma se qualcuno poi lo volesse leggere può andare a guardarselo nei prossimi giorni là. Geniale, sì. Perfetto. Vale. Ok, grazie a todos.